24 Mattino di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, forse sarà l'ultima settimana nella quale terremo questa canzone di Rolling Stones. Perché? Perché forse al 18 maggio si riparte in molte regioni. Buongiorno, benvenuti, questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia, sono le 6:31 minuti di lunedì 11 maggio. Forse, insomma, ci dimenticheremo di questi Rolling Stones che ci parlano di città fantasma. Mentre Roma si è svegliata poco fa, lo avete sentito anche nel GR, con una scossa di terremoto, nulla di grave per fortuna. Oh, amici romani, l'avete sentita? Ditecelo se volete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, non solo su questo, ma un po' su tutto quello che volete, Immagino anche sulla conversione all'Islam di Silvia Romano, tornata ieri sana e salva in Italia dopo un anno e mezzo nelle mani dei sequestratori. E poi sì, su questa epidemia che frena ancora, i dati sui contagi che sono confortanti, il tema del quando riaprirà tutto quello che è rimasto chiuso fino ad ora. E quando sarà approvato il decreto che prima si chiamava aprile, poi si è chiamato maggio e poi è diventato decreto rilancio per evitare ulteriori imbarazzi, a quanto pare oggi, se tutto va bene, se tutto va bene. E sarà tutto uguale sulle riaperture? Lombardia, Piemonte per esempio, insomma, si sta ragionando se rinviare qualcosa. Oh, da cosa iniziamo oggi? Con Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione, tutta la squadra, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, la nostra task force. Iniziamo proprio da Silvia Romano, va? Il suo arrivo. Sto bene, dice. Sto bene? Mentalmente ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e niente, sono felicissima dopo tanto tempo di essere tornata. Vabbè, insomma, giusto, no, una sporcatura di audio, non è che si capisse molto, però dice sto bene, grazie. Poi ieri il lungo interrogatorio con i magistrati per capire come effettivamente siano andate le cose e tutto questo dibattito che si è aperto sulla sua conversione all'Islam, appunto, e sul pagamento del riscatto, perché anche questo è tema. E terzo elemento, ce lo mettiamo, il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano e dunque la questione geopolitica dei nostri rapporti col sultano, con Erdogan. Salvini dice comunque bentornata Silvia. Onore a chi in silenzio rischia la vita per salvare altre vite e bentornata a questa ragazza. E sempre dall'opposizione Giorgia Meloni. E auspico che dopo aver riportato in patria questa nostra connazionale adesso il governo italiano si prodighi per andare a stanare i suoi carcerieri, i suoi rapitori. Ce l'auguriamo. Perché vede, sarebbe un dramma se passasse il messaggio che rapire gli italiani può essere vagamente, come posso dire, remunerativo. Certo. Cara Flavia Perina, come stai, giornalista? Buongiorno, molto bene. Bene. L'hai sentita la scossa di terremoto stamattina? No, veramente io non l'ho sentita. Ah, vedi, perché insomma ho letto un po' su Twitter, è stata a no, mi pare nord-est, verso Monte Rotondo sostanzialmente, e un po' di gente ci ha detto, insomma l'abbiamo visto anche su internet, la scossa si è sentita ed è partita subito, anno bisesto, l'epidemia, la scossa di terremoto, tutto quello che puoi immaginare. Sì, non c'è dubbio, per fortuna è andata bene, insomma sì. non sembra che ci siano danni. 3.3, e... 3.3. Va bene così. 3.3, Flavia Perina, giornalista dell'Inchiesta e non solo, scrive anche per La Stampa. Allora, cara Flavia, io vorrei partire con te per oggi proprio da Silvia Romano. Non parliamo di virus in apertura perché, insomma, è chiaro che questa vicenda domina la scena con tutti i dubbi che ci sono intorno a questa conversione all'Islam, naturalmente, che sta facendo dibattere infinitamente, in alcuni casi in maniera sguaiata, insomma, e dall'altra parte la questione del pagamento del riscatto, non c'è dubbio che quello è un tema. Non siamo il primo, bisogna dirlo Flavia, non siamo il primo paese che paga per riavere indietro, nemmeno tra i paesi europei, che paga per riavere indietro una persona. Ma non siamo al primo paese, diciamo, ogni paese ha una linea sulla questione dei suoi connazionali sequestrati all'estero. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti generalmente non pagano, l'Italia, la Francia e la Spagna imbastiscono trattative e quando è stato necessario hanno pagato in tutti i casi di sequestri di italiani, di nostri connazionali, di italiani, così come ha fatto la Francia fuori dai nostri confini. È una linea di condotta che è stata usata in queste condizioni e probabilmente sarà riusata in futuro e che generalmente nessun partito, al di là dei mugugni che ogni volta ci sono, ha mai contestato, perché a me non mi risulta che sia mai stata presentata una proposta di legge o una posizione ufficiale per dire smettiamo di pagare. Chiunque sia stato al governo, nel momento nel quale arrivi al governo, lo contesti quando sei all'opposizione? Perché dici non si tratta con i terroristi, poi quando arrivi al governo dici vabbè, insomma tutto sommato, no, anche far rientrare una persona che è stata ostaggio, parliamoci chiaro Flavia, proprio brutale, anche con tutto il cinema mediatico che porta tutto questo, oltre ovviamente alla gioia e al piacere di ritrovare una nostra concittadina, no, che rischiava la vita, insomma c'è, l'elemento c'è, no? Certo, c'è l'elemento, pensiamo quale sarebbe stata invece la reazione del paese nel caso opposto, un governo che non paga e un ostaggio che sparisce o che viene sgozzato pubblicamente, non credo che gli italiani sarebbero stati contenti. Sì, e poi ecco la questione geopolitica, il fatto, la mediazione di Erdogan, il fatto insomma di aver messo in mezzo la Turchia, insomma un po' ne troviamo traccia in qualche commento ancora laterale. Dietro questo tipo di contrattazioni ci stanno sempre operazioni di intelligence di cui non si conosceranno mai i dettagli, i risultati e si cercano aiuto dove è possibile. Direi che invece una saggia linea di condotta per il futuro sarebbe quella di interdire a organizzazioni umanitarie troppo piccole per tutelare in modo saggio i loro collaboratori su in territori così ad alto rischio, di impedirgli di fare questo tipo di lavori. Cioè questo, il lavoro della cooperazione, del sostegno in zone dove agiscono bande di questo tipo deve essere affidato ad agenzie, organizzazioni qualificate, grandi, consapevoli dei rischi, che facciano una selezione del personale anche oculata per evitare di esporre persone a rischi inutili. È un tema anche questo sicuramente, e ripeto, poi se ne dibatterà, si dibatterà anche di questa e si sta continuando a dibattere, però non ci voglio nemmeno entrare in questo momento sul tema della conversione all'Islam di Silvia Romano, perché non sappiamo che cosa è successo nella testa di questa ragazza, non sappiamo che periodo abbia passato, non sappiamo se sia una conversione appunto definitiva o qualcosa che è dovuto a questi mesi di carcere, una sorta di sindrome di Stoccolma. Ci vuole, secondo me, rispetto per queste cose, e quindi è facile esondare, lo abbiamo visto in rete in queste ultime ore. Verrei invece alla questione Covid, e alla ripartenza, questo famoso decreto aprile, come si diceva, che poi è diventato decreto maggio, che poi è diventato decreto rilancio. Ieri il ministro Gualtieri, ospite di Fabio Fazio, allora ha detto detto un po' di cose, ha detto un po' di cose. Va bene, innanzitutto ci sarà la cancellazione dell'IRAP per alcune classi di aziende, come da richiesta di Confindustria, su questo si è trovato un accordo. Saranno per esempio eliminate gli oneri di sistema dalle bollette. Sentiamo rapidamente questo passaggio, via. Noi introdurremo anche l'esenzione dagli oneri di sistema delle bollette, cioè quella parte non indifferente del costo delle bollette che sono, diciamo, non legate al consumo, per esempio, quindi tutti quegli esercizi commerciali che hanno chiuso e che poi si ritrovano una bolletta che comunque ha un costo spesso anche alto per questi oneri di sistema, noi li elimineremo con un altro provvedimento del decreto. Non ci sarà la tassa di occupazione suolo pubblico per le aziende proprio del settore della ristorazione, per esempio. Noi vogliamo anche aiutare i ristoratori, per esempio, che metteranno mettere i tavolini all'aperto esentandoli dalla TOSAP e mettendo procedure molto più semplici proprio per adattarsi a queste nuove esigenze. Poi ci saranno 2,5 miliardi proprio per cofinanziare tutte le spese che le imprese, soprattutto quelle della ricezione, della ristorazione, dovranno affrontare per adattarsi a queste nuove esigenze di prudenza, di contenimento del virus. Cosa si capisce, cosa si evince per esempio da questi due brani, due passaggi del ministro Gualtieri? È che al momento sembra caratterizzarsi questo decreto rilancio, e poi lo vedremo, come tutta una serie di micro interventi. A testimonianza di questo ha mostrato Gualtieri il plico di questo decreto rilancio. Flavia, non so se l'hai visto ieri da Fazio, che sì, sventolava, sì, esatto, enorme, no? Dove al momento si fatica a intravedere un quadro generale, un'idea di quadro generale. Che dici? E si faticano a vedere due cose: un'idea di quadro generale, perché questo decreto viene trattato come vengono trattate da 50 anni le manovre finanziarie, cioè c'è una specie di assalto alla diligenza dove ciascun partito con i suoi referenti, le categorie di riferimento, le lobby grandi e piccole italiane cerca di tirarne fuori un pezzetto, e questo secondo me è un grave errore. Ma la carenza più grossa che io vedo è che non viene detta una parola sul tema della burocrazia, perché noi sappiamo tutti per esperienza diretta che in Italia anche i provvedimenti più mirabolanti e generosi si scontrano di fronte a procedure burocratiche che li rendono praticamente inaccessibili al cittadino medio, e in questa circostanza in cui serve soprattutto la rapidità, perché per molti settori la ripresa prima dell'estate è una questione di vita o di morte, una operazione di semplificazione burocratica, indicazioni per rendere immediati e accessibili tutti i provvedimenti che si vanno a varare, è indispensabile. Oh, prova ne sia del discorso che facevi, Flavia, come è andato il decreto liquidità, ossia la lentezza e le difficoltà che ci sono state nel mettere in atto tutto il sistema di prestiti fino ai 25.000 euro, di prestiti sopra i 25.000 euro. È esattamente su questo che si è arenato tutto, Sì, ma ne siamo tutti quanti consapevoli. Alcune banche sul decreto liquidità hanno chiesto fino a 19 documenti per accedere a una cifra di 25.000 euro, il che significa in periodo di lockdown, quando uno materialmente non poteva neanche andare in giro a richiedere i documenti o a fotocopiarseli, significa sostanzialmente impedire o rendere difficilissimo, rendere una corsa ostacoli anche l'accesso alla principale delle misure messe in campo finora. È questa la riflessione che il governo doveva fare. Non possiamo gestire una crisi che richiede rapidità con metodi ottocenteschi, dei pezzi di carta, delle firme autenticate e di quant'altro sarà richiesto per la maggioranza di questi provvedimenti. Il metodo italiano. E poi c'è lo snodo politico, Flavia, che continua a esserci un po' sotto traccia, anche se mi sembra ampiamente placato dal messaggio fatto arrivare alle forze politiche dal Presidente della Repubblica Mattarella nei giorni scorsi. Gli ha detto: guardate, se si va alla crisi di governo, qua si vota e non ci sono storie. E quindi tutti si sono un po', no, ammorbiditi, Italia Viva compresa, ovviamente. Ma in realtà, diciamo, a fermare le polemiche di Italia Viva c'è stata la decisione di Conte di ricevere finalmente Renzi per un vertice a quattro occhi. Era quello che Renzi cercava da tanto tempo senza mai ottenerlo, di ottenere lo status di interlocutore diretto e importante, insomma, di Palazzo Chigi. L'ha ottenuto e al momento sembra un po' placato. Poi ci sono state le vicende, ecco, di Silvia Romano e di quant'altro. Lo stato dell'arte della politica lo vedremo la settimana prossima, quando approderà in Parlamento una probabile mozione di sfiducia contro Bonafede e quando si entrerà nel vivo anche delle procedure per approvare questo mitico decreto rilancio, che si ha la sensazione che slitti a fine mese, se non addirittura al mese prossimo a questo punto. Allora, vi vedo belli scatenati sul tema di Silvia Romano, del pagamento del riscatto. Dite la vostra, se volete, 349-238-6666, le vostre voci soprattutto, il traffico. Tu, Flavia Perina, resta con noi, che adesso ci sentiamo un ospite che è il sindaco di Bolzano, per farci raccontare un po' come è andato questo fine settimana di riapertura, perché come sapete Bolzano, la provincia autonoma di Bolzano, ha deciso di anticipare i tempi. Resta con noi. Ventiquattro mattino. La questione delle riaperture. Le riaperture come? Dice il presidente veneto Zaia: ho sentito parlare di tavoli ogni 4 metri, ma che siete matti. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri, ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Dice Michele Emiliano: dal 18 riapriamo qua in Puglia parrucchieri, estetisti e via dicendo. Non so che cosa sia successo ieri veramente, però il 18 parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza riapriranno tutti regolarmente come previsto. Evidentemente qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, facendogli intendere che noi stavamo facendo una cosa imprudente. Invece non è così, perché le regole dell'ordinanza che consente a queste attività di riprendere il 18 anziché il 1° di giugno, come era inizialmente previsto, sono regole che sono state studiate dal professor Lopalco e da tutti i miei tecnici assieme ai professionisti, addirittura con sopralluoghi dentro ciascuna delle strutture. Le riaperture, dunque. Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Ci siamo. C'è Caramaschi? Sì, eccolo qua. Allora, com'è andato questo primo fine settimana in città, questo primo fine settimana di riapertura anticipata? Beh, direi che sabato è andato metà-metà. La popolazione ovviamente ha preso d'assalto un po' il centro, la curiosità dopo 2 mesi di vigilanza, di sequestro collettivo di una città intera, aveva voglia di girare, però devo dire che sono stati molto diligenti nel portare le mascherine, tentando di mantenere la distanza camminando, fatto salvo i gruppi familiari, quindi c'è stata una ripresa, una voglia di vita che era prevedibile dopo 2 mesi di sequestro, come dicevo prima. Però la prova del fuoco la facciamo oggi per fortuna piove, quindi non ci sarà l'assalto alle piste ciclabili, alla corsa, al footing, alle passeggiate, che qui non sono limitate alla città, possono andare senza limitazioni in tutta la provincia, e quindi c'è stata una ripresa dell'attività. Spero che sia positiva dal punto di vista dell'economia, riaprono i bar con le misure di sicurezza dovute, 2 metri di distanza, un numero massimo in funzione del numero di posti a sedere, e siamo molto diligenti, quindi sono molto fiducioso che l'economia possa riprendere, però rispettando tutte le regole e la sicurezza, questo è fondamentale. Caramaschi, immagino da come ce ne parla, immagino che lei sia stato in linea con la decisione del presidente della provincia, Compace, perché poi è lui che ha preso la decisione, no? Beh, ha fatto adottare una legge provinciale poi impugnata dal governo per una parte solo, soprattutto sulle linee guida dell'INAIL, che qui non sono ancora state emanate a Roma, ma sono linee guida che la provincia ha adottato, che sono molto simili, e quindi in attesa di queste linee guida governative questa legge consente la riapertura dell'attività economica. Tenga presente che l'Alto Adige è pieno di piccole e medie imprese molto tecnologiche, avanzate, che guardano ai mercati esteri, quindi un eccesso di interruzione dei rapporti determina anche delle perdite di commesse e nuovi fornitori, quindi era fondamentale riaprire. Devo dire che la città di Bolzano ha una densità molto elevata, siamo 108.000 abitanti su 53 chilometri quadrati, abbiamo una densità che si avvicina a quella di Brescia, dove credo che sia successo un mezzo disastro, altro il territorio provinciale con una densità molto bassa e quindi le probabilità di contagio sono diminuite. Ho fatto una piccola battaglia col Presidente per fare delle capacità più restrittive ai sindaci, che sono rimaste in capo anche questa legge, quindi monitoriamo sempre il numero dei contagi, il numero dei ricoverati. Nel caso, Caramaschi, lei potrebbe intervenire restringendo l'ordinanza provinciale per il solo territorio di Bolzano, in sostanza? Potrà fare, così come tutti le sindache e i sindaci dei comuni dell'Alto Adige, ma si riferisce particolarmente al capoluogo perché, come dicevo, siamo molti una pianura circondata dai monti molto densamente popolata, e quindi laddove dovessero esserci degli indicatori di peggioramento potrei intervenire limitando l'attività, le chiusure di bar, gli orari degli esercizi. Quindi è una costante collaborazione con la provincia per monitorare, soprattutto con l'azienda sanitaria locale, per verificare che non si determinano degli aumenti, così come è avvenuto in Germania, così come rimane in Inghilterra. Quindi è la massima attenzione, voglia di ripresa, sì, ma con autodisciplina, autoresponsabilità, amore verso il prossimo e verso se stessi. Quindi si riparte, ma siamo molto determinati a rispettare le regole. Cara Flavia Perina, qua abbiamo fughe in avanti dal sud al nord, al sud estremo al nord estremo dell'Italia. Insomma, da una parte la Calabria, lo sappiamo, la riapertura all'aperto, i bar e i ristoranti che tanto ha irritato il governo. Dall'altra adesso la provincia di Bolzano, forse il governo andrà anche qua verso l'impugnazione. Insomma, mi sembra che abbia la questione di Covid-19 l'abbia evidenziato a livello sanitario, e ancora di più lo stia evidenziando adesso in questa fase nella quale molte regioni scalpitano per ripartire. Abbiamo sentito anche Michele Emiliano poco fa, no? Una questione che ha a che fare sul come gestisco questi territori, questo federalismo che poi non è un vero e proprio federalismo, ma lo è, insomma, è un po' il famoso quadro istituzionale uscito dalla riforma del Titolo V che non rende abbastanza chiare le cose. Sì, no, beh, la riforma del Titolo V, a mio giudizio, non solo in questa emergenza, ma in generale per molti versi, si è dimostrata abbastanza catastrofica, perché ha conferito alle regioni degli enormi poteri, senza però ben dividere le competenze con lo Stato e soprattutto senza prevedere meccanismi, come in un caso come questo. Durante una grande emergenza sanitaria è ovvio che il sistema sanitario non possa essere spezzettato in 21 centrali di spesa, di decisione, di interventi. Noi abbiamo visto una differenza di operatività tra le regioni italiane veramente enorme, che doveva essere evitata centralizzando almeno una parte dei servizi. Io penso ai medici di famiglia, alla gestione dei medici di famiglia. Ma adesso il problema non è questo, il problema è che il governo ha tarato la riapertura sulla base dei numeri delle regioni a maggior contagio, ed era ovvio che in posti dove il contagio è sotto controllo già da settimane, la viralità del virus è sempre stata ritenuta molto bassa, sono pochissimi gli infettati, sono zero i morti da molto tempo, ed è ovvio che in quei posti si dica: ma perché dobbiamo seguire, certo, le stesse regole magari necessarie di chi invece c'ha ancora 70, 80, 50 morti al giorno e 300 o 400 casi al giorno? quindi era inevitabile che accadesse nel momento in cui si è deciso di trattare tutta l'Italia allo stesso modo. L'Italia non è stata uguale davanti al virus e questa cosa doveva essere tenuta in considerazione, dovrà essere anche tenuta in considerazione in futuro quando si comincerà a parlare di libertà di spostamento attraverso i confini regionali. Grande tema anche questo. Senta Caramaschi, ma li riaprite nidi, materne? Che cosa avete intenzione di fare? Questo dalla prossima settimana gli asili nido e tutte le strutture, le microstrutture che ospitano i bambini, naturalmente a numeri ridotti, con un assistente e un insegnante ogni 4 bambini, quindi soddisferemo circa la metà delle richieste, metà, venendo incontro all'esigenza, con i criteri dettati dalla provincia, all'esigenza dei genitori che sono chiamati al lavoro, e quindi dobbiamo garantire, anche se non nella misura precedente all'epidemia, un tipo di assistenza. Quindi procederemo con assoluta prudenza, questo lo ribadisco, e con numeri ridotti, e speriamo che questo sia il prologo a un'apertura successiva. Vediamo come tutto in funzione del tasso di contagio. Se siamo bravi, disciplinati, come spero che lo siamo sempre stati, credo che si possa accelerare. Aveva ragione la Presidente, credo, della Calabria, l'Italia è molto lunga, è molto diversa. Trattare tutto nello stesso modo diventa estremamente difficile. Capisco la prudenza del governo centrale, sì, qua hanno delle belle responsabilità, però bisogna responsabilizzare anche le autonomie locali. In questo il senso di responsabilità non è minore di quello del governo centrale, e quindi monitoriamo e vediamo come si sviluppa. Spero che vada tutta bene, perché veramente altrimenti sarebbe una retrocedere in una situazione drammatica dalla quale siamo usciti, e per questo non bisogna assolutamente rientrare. Fase 2 è una libertà vigilata, la chiamo così, prima eravamo sequestrati, adesso siamo in libertà vigilata, sta alla bontà, alla responsabilità di tutti i cittadini, degli operatori, dei lavoratori, degli artigiani, mantenere quelle misure di sicurezza, non farsi prendere della frenesia e garantire questa normale ripresa che porta alla fase 3, che è un ritorno alla normalità, che lascerà chiaramente i suoi segni questa crisi. Però se sì, i tempi di ripresa sono brevi, possiamo riprendere e quindi ritornare ai livelli ante coronavirus. Grazie Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano. Grazie a voi. Flavia Perina, ciao Flavia, alla prossima. Alla prossima, saluti a tutti, arrivederci. Scrive per l'Inchiesta, per La Stampa. Grazie Caramaschi, grazie. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.